442. Patate tartufate. Tagliate a fette sottili delle patate già mezze lessate e ponetele a suoli in una tegliettina, intramezzate da tartufi anch'essi a fette sottili e da parmigiano grattato. Aggiungete qualche pezzetto di burro, sale e pepe e quando cominciano a grillettare, annaffiatele con brodo o con sugo di carne. Prima di ritirarle dal fuoco, strizzate sulle medesime un po' d'agro di limone e servitele calde.